ci racconti una storia. I racconti di Laura Lorenza Sciolla. La volta scorsa abbiamo chiuso con la domanda: chi è l'uomo? Da un lato, infatti, pensavamo ai tanti esempi di nobiltà e generosa dedizione. Pensate al fiorire del volontariato, all'entusiasmo con cui molti ragazzi sono andati a ripulire dal fango i paesi di recente alluvionati. Dall'altro, agli esempi di crudeltà, meschinità, cupidigia che purtroppo ci circondano. Oggi, per cercare di dare una risposta, non andremo a sfogliare libri antichi, non ci appelleremo all'erudizione di Chico della Mirandola o alla saggezza oscura dei miti, ma rievocheremo un evento che i giovani di oggi conoscono poco, mentre per le persone della mia età è un ricordo ancora vivo, nonostante risalga vari decenni fa e non abbia coinvolto noi italiani in prima persona. La guerra del Vietnam. Di recente ho riletto la testimonianza che di tale conflitto diede una grande giornalista, Oriana Fallaci. La Fallaci, che è scomparsa nel 2006, è sempre stata una delle voci più indipendenti e originali del giornalismo italiano. Incurante del politicamente corretto, appassionata sostenitrice delle proprie posizioni e della libertà del pensiero umano, ha condotto un'esistenza all'insegna della lotta contro il conformismo, pagando sempre in prima persona, spesso anche a prezzo molto alto, la propria personalissima ricerca della verità. Alla guerra del Vietnam, Oriana Fallaci dedicò il volume Niente così sia, edito per la prima volta nel 1969. Il libro racconta le esperienze e le impressioni del lungo periodo da lei trascorso nel paese durante le fasi più aspre del conflitto. Molte sono le storie e le situazioni strazianti che la scrittrice narra come se le raccogliesse per rispondere alla domanda postale dalla sua nipotina prima della partenza. La vita, cos'è? Difficile non cadere nella disperazione, non abbandonarsi al cinismo e al nichilismo, difficile continuare a credere nell'uomo di fronte a tanti esempi di efferatezza. D'altro canto, però, la guerra offre anche esempi di abnegazione, eroismo, nobiltà. Talvolta la stessa persona va dall'uno all'altro estremo, come lo spietato e insieme fragile generale Loan. Che cosa pensare allora? Che razza di essere l'uomo che da un lato va sulla luna, dall'altro continua ad ammazzare i suoi simili, come se fosse ancora l'uomo della pietra e della fionda, per dirla con Quasimodo? Mentre, sconfortata, sta per abbandonare la ricerca e il paese, convinta che gli uomini valgano molto meno di quanto credesse, il suo amico e collega François Pelou, al quale è dedicato il libro, le rivolge alcune parole che mi hanno colpito molto. Leggiamo insieme il passo. Il primo a parlare è François. Che tu parta, prima o dopo, è giusto. Non puoi passare la tua vita in Vietnam. Ma che tu parta perché hai scoperto che nemmeno qui gli uomini sono angeli, mi sembra eccessivo. Oriana risponde. Non mi aspettavo che fossero angeli, François. Mi aspettavo che fossero uomini. Ma se rileggo gli appunti degli ultimi giorni, non trovo un solo episodio, un solo incontro che mi ricordi di essere stata fra gli uomini. Io avevo fiducia negli uomini e tu mi avevi aiutato ad averne. Credevo che valesse la pena arrabbiarsi per loro, che fosse anzi un dovere. Non lo è, perché non ne vale la pena. Dopo aver sorriso, irritandole in tal modo ancora di più, François estrae dalla borsa che porta sempre dietro e che è piena di macchine fotografiche, carta, rotoli, bossoli raccattati per terra, un libro del quale nasconde il frontespizio con la mano. Dice, l'ho portato proprio per te. Vedi quanto è gentile il Pelù con chi si scoraggia troppo. Grazie, risponde Oriana. Gentile, gentile, canticchiava mentre cercava la pagina. Poi l'ha trovata. Posso leggere? Certo. Si è messo a leggere. L'uomo non è né angelo né bestia e l'avventura vuole che colui che vuol fare l'angelo faccia la bestia. È pericoloso far vedere all'uomo quanto è uguale alle bestie senza mostrargli la sua grandezza. Ed è anche pericoloso fargli vedere la sua grandezza senza mostrargli la sua bassezza. Ma è ancora più pericoloso lasciargli ignorare l'una e l'altra, ed è molto vantaggioso mostrargli l'una e l'altra. Non bisogna che l'uomo creda di essere uguale alle bestie o agli angeli, non bisogna che ignori l'uno e l'altro, ma che sappia d'essere l'uno e l'altro. Chi l'ha scritto, François? Chiede Oriana. E lui risponde, un tipo che nacque nel 1600 dalle mie parti, un tipo dell'Auvergne. Si chiamava, pensa, Pascal. Posso continuare? Sì. Che l'uomo dunque stimi il suo prezzo, che si ami perché c'è in lui una natura capace di bene, ma che non si ami per le bassezze che essa contiene, che si disprezzi perché in lui tale capacità è vasta, ma che non si disprezzi per tale capacità stessa, che si odi, che si ami. Io condanno ugualmente coloro che lodano l'uomo, coloro che lo biasimano e coloro che lo prendono per divertirsi, e non posso che approvare coloro che lo cercano gemendo. Dopo qualche altro scambio di battute con Oriana, François legge un ultimo pensiero di Pascal. Se si vanta, io lo avvilisco. Se si avvilisce, io lo vanto. E lo contraddico sempre, fino a che comprende che è un mostro incomprensibile. Un mostro incomprensibile. Abbiamo viaggiato attraverso tanti secoli, luoghi, tragedie, autori, per ritornare al concetto di mostro. Il nostro amico Minotauro, dal quale eravamo partiti qualche tempo fa, e con il quale ci lasciamo. A risentirci. Avete ascoltato? Prof, ci racconti una storia. Un'idea di Adelaide Spallino. Programma curato e condotto da Laura Lorenza Sciolla. Regia di Dario Albertini. Prof, ci racconti una storia è una produzione Radio Libriamoci Web per Associazione Culturale Clarite. Licenza Creative Commons 2.5. I racconti di Laura Lorenza Sciolla vi danno appuntamento alla prossima settimana.